Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, buon 2 giugno a tutti da Deborah Rosciani. Per molti di voi una giornata di tranquillità da trascorrere a casa, probabilmente per molti di voi anche un bel ponte in vista, non per noi che invece siamo qua regolarmente perché la borsa è aperta, per cui in concomitanza con i mercati finanziari che contrattano e negoziano regolarmente anche noi siamo in diretta, e oggi per questa puntata di festa abbiamo scelto un tema abbastanza originale per Salva Danaio, un tema che va a metà tra la finanza e la filantropia e il sostegno alle attività del territorio. Allora voi vi chiederete come fate a mettere insieme tutti questi argomenti. Oggi parliamo dell'attività delle fondazioni. Le fondazioni non sono solo quelle enormi e complesse istituzioni finanziarie che operano dietro le quinte del mondo bancario ed economico, quelle organizzazioni cioè che sostengono per esempio gli aumenti di capitale delle banche. Ieri abbiamo parlato di quello che è successo a Monte dei Paschi, perché la fondazione Monte dei Paschi ha messo sul mercato una parte del suo pacchetto azionario proprio per monetizzare questa quota e quindi aderire all'aumento di capitale che Monte dei Paschi farà nelle prossime settimane. Quindi non sono solamente quelle istituzioni dalle cui decisioni dipendono gli assetti azionari ed organizzativi del mondo del credito. C'è anche un altro mondo molto attivo, molto interessante, in forte espansione anche nel nostro paese e che discende dall'attività delle fondazioni bancarie. Parliamo delle fondazioni di comunità. Si tratta di organizzazioni filantropiche che raccolgono fondi per il sostegno della comunità nella quale operano, nei settori più diversificati, arte, cultura, ambiente, ma non solo, c'è anche l'appoggio a progetti di solidarietà, ad associazioni no profit, una risposta ai bisogni economici locali di un determinato territorio, può essere una provincia, può essere un comune. Quali sono le fondazioni di comunità più attive? Operano dovunque? Quali sono le storie più originali? Come si finanziano e che cosa finanziano? Oggi vi racconteremo qualcuna di queste esperienze partendo da alcune cifre. A fine 2009 esistevano nel mondo 1680 fondazioni di comunità, di cui circa la metà costituita dopo il 2000, quindi sono delle esperienze, almeno quelle in Italia, molto recenti, con una crescita particolarmente forte in Europa, e di questa speciale classifica risulta che l'Italia, pensate, è la terza al mondo. Chi sono i nostri ospiti di questa mattina che hanno rinunciato a questa ora di vacanza, poi li lasceremo naturalmente tranquilli? Il dottor Mario Romano Negri, presidente della Fondazione della provincia di Lecco, oltre che coordinatore della Commissione Arte e Cultura di Fondazione Cariplo. Dottor Negri, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie di essere con noi. Anche a Silvio Valtorta, segretario della Fondazione di Comunità della provincia di Brescia, una fondazione che ha da raccontarci di lasciti testamentari piuttosto interessanti, e noi cercheremo di capire poi come questo denaro viene destinato a progetti per la comunità. Valtorta, buongiorno. Buongiorno signora, buongiorno. Buongiorno, e più tardi ci collegheremo anche con il discendente, l'erede di una delle dinastie più note nel nostro paese, quella Ponti, Giacomo Ponti, del più noto acetificio, almeno così conoscete sicuramente meglio questo cognome, perché Cesare Ponti, che è un altro, è lo zio di Giacomo, ma è un erede appunto della dinastia, anche lui è oltre che un grande imprenditore, anche un grande filantropo, ed è responsabile appunto della fondazione di comunità di Novara. Quindi anche in questo caso cercheremo di capire lì che cosa si fa e come questa esperienza viene messa a frutto. Allora, mi piacerebbe sentire anche le vostre considerazioni su questo argomento. So che magari per alcuni di voi possono apparire attività e concetti, esperienze molto lontane, e in realtà invece magari forse anche inconsapevolmente vi siete imbattuti in progetti sostenuti finanziariamente ed economicamente dalle fondazioni di comunità del territorio nel quale vivete. Quindi se ne siete a conoscenza raccontatecelo, perché peraltro ci rendiamo conto che oggi stiamo facendo una puntata un po' prevalentemente orientata sul territorio lombardo e piemontese, ma queste fondazioni ci sono anche su tutto il territorio. Il dottor Negri peraltro le conosce molto bene, poi magari se vorrà ci racconterà anche di altre esperienze in altre zone d'Italia. Però vi chiedo anche il vostro supporto, come sempre, all'800240024 o al 349-238-6666. Diamo un'occhiata alla borsa oggi, di nuovo preoccupata, perché dalla Grecia spirano venti sempre più lugubri. Cosa è successo adesso? Che Moody's ha tagliato il rating del debito della Grecia, lo ha portato a C RAA1, cioè rischio sostanziale di default, con un outlook negativo, per cui ancora prospettive di peggioramento per il giudizio. Non è che tutto questo ci sorprenda più di tanto, ma di fatto a questo punto credo che si dovrà uscire allo scoperto sull'intenzione o meno da parte della Grecia di o decretare la bancarotta tecnica del paese oppure procedere ad una ristrutturazione del debito. Adesso vedremo anche se arriverà il nuovo pacchetto di aiuti targato Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale. Vedremo se è vera questa indiscrezione che circola, secondo la quale il Fondo Monetario non sarebbe molto intenzionato a garantire nuovo sostegno. Di fatto però questa nuova situazione stamattina incupisce un po' l'umore dei listini del vecchio continente, che avevano avuto invece un inizio settimana molto positivo. Stamattina abbiamo un calo di Parigi di circa un punto percentuale, meno 0,8 su Francoforte, meno 0,7 su Londra. Milano invece, per non saperne leggere né scrivere, non va nella stessa direzione delle altre piazze europee, perdeva da stamattina molto meno. Adesso il FTSE MIB è in calo dello 0,07%, quindi Milano sta tentando di risalire la china. Perde terreno UbiBanca, perde il 2,56%, il gruppo stamattina ha comunicato i dettagli dell'aumento di capitale che ci sarà la prossima settimana, che partirà la prossima settimana, e il gruppo offrirà azioni di nuova emissione nel rapporto di 8 nuove azioni ogni 21 possedute. Il prezzo di sottoscrizione 3,80 euro, è stato determinato applicando uno sconto di circa il 22,43% rispetto al prezzo teorico ex diritto aumento di capitale. Condizioni un po' tecniche, ma chi conosce appunto queste operazioni sa di che cosa stiamo parlando. Detto questo, tra gli altri ribassi, STM meno 2,21, Fiat meno 2 punti dopo i dati sulle matricolazioni di ieri, Pirelli meno 1,81, i titoli con il segno più, Tenaris più 1,37, Diasorin più 1,20, Unicredit in rialzo di un punto. Per la borsa è tutto, andiamo subito invece al tema di oggi, parliamo dell'attività delle fondazioni di comunità. Italiani popolo di benefattori? Così sembrerebbe. C'è il ricco imprenditore brianzolo che decide di donare parte della propria eredità. La casalinga milanese, che offre la nuda proprietà della sua casa del valore di 500.000 euro. Altri mettono a disposizione cifre minori, ma sempre con lo stesso intento: destinare i propri soldi a diversi progetti filantropici nel proprio territorio, con un controllo costante sul loro utilizzo. Il panorama della beneficenza italiana può avere tanti nuovi piccoli Bill Gates che contribuiscono alla crescita di un ancora poco conosciuto fenomeno solidaristico, le fondazioni di comunità. Un modello nato in America, grazie anche alla massiccia presenza di paperoni. Attualmente negli Stati Uniti ci sono oltre 700 fondazioni sparse sul territorio, con un patrimonio di 48 miliardi di dollari ed erogazioni per 4 miliardi e mezzo. Al secondo posto si piazza il Canada, con 171 fondazioni che contano su un patrimonio complessivo di circa 2,8 miliardi di dollari e fanno erogazioni per 137 milioni di dollari. Ma la grande sorpresa è che sul podio trova posto anche l'Italia, che ha di recente superato il Regno Unito con 30 fondazioni di comunità locali, un patrimonio di 225 milioni di euro ed erogazioni per 25 milioni di euro. Allora, se siete interessati all'attività delle fondazioni di comunità, chiamateci questa mattina all'800 24 00 24, se conoscete esempi di donazioni importanti, anche perché molto spesso l'attività dei filantropi rimane nell'ombra e la solidarietà vera d'altronde si fa attraverso anche questo sistema. E se siete anche incappati, in senso positivo naturalmente, in qualche progetto che si è sviluppato sul vostro territorio grazie all'attività delle fondazioni di comunità, raccontatecelo e ci farà sicuramente piacere mettere a confronto queste esperienze con quelle che invece ci racconteranno intanto il dottor Mario Romano Negri, presidente della Fondazione della Provincia di Lecco, ma come dicevamo prima anche coordinatore della Commissione Arte e Cultura di Fondazione Cariplo. Perché, dottor Negri, dobbiamo un po' raccontare la storia di queste fondazioni in Italia? Tutto nasce proprio da una decisione precisa presa una decina d'anni fa dalla Fondazione Cariplo, che nella sua attività fa proprio quello che io descrivevo all'inizio, no? Sono queste grandi istituzioni che operano alle spalle del mondo bancario con finalità prettamente finanziarie, ma fanno tanto altro. Come è nato il mondo delle fondazioni di comunità in Italia? Sì, buongiorno innanzitutto. Fu una scelta strategica ben precisa, perché quando Fondazione Cariplo decise

abbiamo costi di gestione che si aggirano intorno al 2,5% delle erogazioni che facciamo, cioè noi eroghiamo il 97,5% di tutte le risorse che abbiamo a disposizione. Dottor Negri, allora arriva il signor Ponti del caso sulla provincia di Lecco e che vorrebbe appunto attivarsi attraverso una propria donazione per sostenere il territorio di Lecco, che è quello di riferimento per quello che riguarda la sua attività. Allora, come documentate a questo imprenditore o a questa persona che può fare anche un'altra attività nella sua vita l'impiego del denaro appunto nella fondazione? Allora, il patrimonio che dona questo donatore non è più suo, diventa proprietà della fondazione. Però, come dicevo prima, la fondazione, la nostra almeno, ogni anno rendiconta al donatore quanto ha reso il suo patrimonio. E a seconda del tipo di fondo che lui ha scelto, perché i fondi possono essere tematici, possono essere indirizzabili, possono essere a destinazione vincolata. Cioè lui può dire, per esempio, io voglio sostenere l'ambiente piuttosto che un progetto sociosanitario, piuttosto che la scuola. Su grandi settori, gli anziani, l'handicap, eccetera, insomma. Oppure ogni anno può decidere volta per volta come spendere questo reddito, ovviamente nell'ambito dei bisogni sociali del territorio. Noi a monte abbiamo la scelta di essere stati siamo onlus e quindi abbiamo dei vincoli erogativi ben precisi: socio-assistenziale, recupero del patrimonio artistico ed ambiente. Ma un donatore che vuole operare con una fondazione come la nostra ha tre strade: o può sostenere uno dei progetti che vengono approvati dalla fondazione, selezionati tramite i bandi di cui si parlava prima, oppure costituire un fondo patrimoniale che entra nel saldapandanaio, questi soldi non saranno mai spesi, ma servono per far crescere il patrimonio e si spenderà solamente il reddito, oppure c'è un'altra forma ancora che abbiamo istituito nella nostra fondazione, che sono i fondi memoriali, cioè quando si ricordano delle persone, e questi qua sono fondi che magari da spendere subito, cioè soldi che entrano ma che sono destinati ad un'iniziativa specifica. Volevo ascoltare quello che ci deve raccontare Luigi da Roma per poi tornare ai nostri ospiti di questa mattina. Luigi, benvenuto. Ciao, buongiorno agli ascoltatori. È vero, in Italia, a Roma, è pieno di gente generosa, se ne parla poco, non fa notizia, ma ci sono tantissime persone generose. Io sono presidente di una cooperativa sociale, si chiama SPES contra SPEM, e abbiamo diverse case famiglia per persone disabili e per ragazzi adolescenti. La storia di una di queste case nasce da un atto di generosità incredibile e dalla morte di una persona. 20 anni fa io facevo l'obiettore di coscienza, insieme con me Salvatore. Salvatore chiede 10 giorni di licenza, si arrampica in montagna, sul Monte Sella in Val Gardena vicino Bolzano, cade. Un anno dopo la morte di Salvatore gli scrivo un biglietto dicendogli: guarda quante coincidenze, sei morto sullo stesso monte dove era morto mio nonno, che si chiamava Luigi Vittorio come me, facevamo servizio insieme. E tante altre storie gli racconto, e racconto ovviamente ai genitori di Salvatore che raccolgono questo biglietto. Passa ancora un anno e mi rispondono. Da questo primo biglietto nasce un'amicizia bella, profonda. Passano 10 anni, e 10 anni dalla morte di Salvatore vengono a trovarmi i genitori e mi dicono: Luigi Vittorio, questi 300 milioni sono per te. Erano i soldi che sarebbero serviti a Salvatore per mettere su casa della mia liquidazione. Lui lavorava come direttore generale alla Ericsson, c'era un'eredità. Tienili tu, facci quello che vuoi. Decidiamo di comprare una casa e di trasformarla in casa famiglia. Chiamo i genitori di Salvatore e mi dicono: noi non vogliamo venire, non vogliamo figurare, non vogliamo che si sappia chi siamo e che cosa abbiamo fatto. Ma venite a vedere la casa, voglio che la vediate. Vengono e mi chiedono subito: quanto costa questa casa? Costa 500 milioni di lire, stiamo parlando di 10 anni fa. Scusami, come fai? Hai soltanto 300 milioni. Dico: beh, ma non ti preoccupare, gli altri li trovo. Dice: no, io ho finito tutti i soldi che avevo, ho altri 2 figli, però i soldi che mancano si fa un mutuo e il mutuo lo pago io. E ogni mese ci regalano 1.150 euro. Luigi, adesso io la ringrazio moltissimo per il racconto di questa bellissima storia, che un pochino esce dal seminato rispetto a quello che stavamo raccontando questa mattina, perché non avete il sostegno comunque di una fondazione di comunità di matrice chiaramente bancaria come di quelle di cui stiamo parlando questa mattina, ma magari potrebbe anche essere un'idea, se qualcuno avesse voglia, potrebbe, non lo so, dottor Negri, mi viene un'idea, capire se ci fosse una fondazione di comunità nel Lazio, non so se ne esistono peraltro. Ecco, è un'istituzione che però potenzialmente attraverso questa modalità potrebbe essere aiutata. Ma sicuramente, perché noi per la legge ONLUS finanziamo le associazioni di volontariato, le cooperative di tipo B, di inserimento lavorativo, e quindi e poi tutte le associazioni di auto mutuo aiuto, insomma. Quindi mm-hmm. questo sarebbe un soggetto sicuramente finanziabile. Certo. Ma noi di questi esempi ne abbiamo. Infatti immagino, mi racconta la storia che mi ha raccontato prima che partisse la trasmissione dei 10 sacerdoti che hanno messo di loro tasca, non mi ricordo bene, 10 milioni di lire qualche tempo fa. Si presentarono da me 10 sacerdoti nativi del comune di Premana. Premana è un comune in Alta Valsassina che ancora oggi mantiene una serie di tradizioni che si tramandano nel tempo, dotato di un forte senso di appartenenza. Insomma, questi 10 sacerdoti si presentarono e versarono ciascuno 10 milioni di vecchie lire per costituire il fondo della comunità premanese. Questo fondo, ovviamente, anche qua con la solita regola, soldi che non sarebbero mai stati spesi, ma di cui si spende il reddito, e questo reddito è destinato esclusivamente per le attività sociali del territorio premanese. A seguito di questa iniziativa ne sono nati altri di questi fondi, a Valmadrera, a Molteno, a Malgrate, adesso ne stanno nascendo due, Costa Masnaga, Balzano, eccetera. Sono fondi che crescono lentamente, ma qual è la sorpresa? Che già esistono dei testamenti fatti a favore dei fondi di queste comunità, cioè persone che lì hanno vissuto, hanno fatto la loro fortuna, hanno avuto le loro soddisfazioni, eccetera, che magari non hanno eredi, hanno già deciso oggi che le risorse, quando non ci saranno più, andranno a questo fondo di comunità, proprio destinato alla comunità, certo, dove loro sono cresciuti, hanno vissuto, eccetera. Quindi è una forma di federalismo sociale. Federalismo sociale. Volevo ritornare un attimo a Silvio Valtorta della Fondazione di Comunità della Provincia di Brescia, che non ho sentito negli ultimi minuti, ma magari anche per far capire ancora ai nostri ascoltatori, siccome stiamo parlando di piccoli Bill Gates italiani, ma in realtà è necessario avere delle grandi dotazioni patrimoniali, essere molto ricchi per poter dare il sostegno a queste fondazioni di comunità, Valtorta, oppure magari anche, non lo so, proprio perché viene particolarmente ispirato dalla vostra attività, anche se una persona avesse molto meno, avesse poco, può contribuire con quel poco che ha alla vostra, oppure avete anche un limite di ingresso, chiamiamolo così, dei vostri sostenitori? No, non abbiamo nessun limite di ingresso. In definitiva noi sentiamo fortemente il ruolo di intermediario etico che svolgiamo tra coloro che vogliono donare e le organizzazioni non profit o le istituzioni che hanno progetti di utilità sociale. Quindi in questo senso siamo sempre aperti ad analizzare, a costruire con il donatore un percorso che vada nelle direzioni auspicate da parte dei potenziali beneficiari. Tornavo un momentino però sull'intervento di Negri per dire che noi siamo strutturati in maniera diversa, sì, nel senso che a Brescia il personale è tutto dipendente. Ah, ecco. È tutto dipendente, sono quante persone lavorano a tempo indeterminato con la fondazione che in definitiva poi incidono nella misura del 4% sulla totale attività erogativa, quindi non è no, però affinché funzioni bene avete scelto questa strada. Sì, sì, venivano i quattrini per pagare le persone, ecco, vengono da dei redditi del patrimonio investito, quindi praticamente dal patrimonio investito escono le risorse per pagare anche il nostro personale. Benissimo. Ma fatto questo, volevo andare anche ad ricollegarmi, ecco, al ruolo di intermediario etico, vuol dire ascoltare i grandi e ascoltare i piccoli. E ci sono tante storie diverse l'una dall'altra, per esempio, e questi fondi sono come se fossero delle piccole fondazioni all'interno della fondazione senza averne i costi, perché i costi li sopportiamo tutti noi. Ecco, in quest'ottica per esempio abbiamo un fondo molto interessante che con una dotazione patrimoniale ridotta ha finanziato per circa 600.000 euro 30 dottorati di ricerca tra l'Università di Bergamo e di Brescia. E certo. Quindi le volontà dei donatori sono molto diversificate, come pure lo scorso anno abbiamo favorito con un contributo di 400.000 euro una piattaforma alimentare per le borsine alimentari dei poveri, che sono delle emergenze che in questo periodo generate dalla crisi e appunto enfatizzate purtroppo in questo tipo, quindi i nostri contributi mediamente si attestano sull'ordine del medio di 10-20.000 euro per progetto, poi ci sono dei progetti che hanno delle contribuzioni più elevate in relazione agli obiettivi che si pongono. Poi per quanto riguarda il rapporto con i donatori, noi abbiamo un incontro annuale nel corso del quale presentiamo tutte le rendite, tutte le attività svolte. Fate l'assemblea della fondazione. Però abbiamo l'assemblea, noi settimana prossima faremo un'assemblea pubblica dove renderemo conto a tutta la comunità di quanto è stato raccolto, tanta medaglia e fino all'ultimo centesimo di quanto è stato erogato. E poi erogato. È una cosa simpatica che quest'anno come relatore principale avremo il presidente della Fondazione con il Sud, Carlo Borromeo, quindi cerchiamo anche di intrecciare esperienze, di conoscere e di estenderle, espanderle e apprendere le esperienze. Benissimo, Val Torta, come sente sta partendo la sigla, io devo salutarvi. Mario Negri, rapidamente, solo in 5 secondi, se qualcuno volesse documentarsi sull'attività delle fondazioni di comunità, come può fare? Ognuno ha il suo sito, Fondazione Provincia di Lecco ha il suo sito, tutte quante sono dotate di un sito che si possono vedere tutte le attività, i rapporti sociali, i bandi in corso, le donazioni, benissimo, i vantaggi fiscali, eccetera. Benissimo, grazie e soprattutto a voi complimenti per la vostra attività. Salvadanaio termina qui, ma noi ritorniamo anche domani. Nessun ponte per noi, come vi dicevo, solo quello della Ghisolfa. Per me, Fabio Gaia e tutti i miei collaboratori, a domani, buona giornata. We'll be right back.